Il tuo cuore batteva, il vento scorreva, la croce e il mantello si coprivano. Il tuo cuore batteva e la tua coscienza chiara ha aperto ponti di dimensioni. Al di là della strada e il suo trasferimento, al di là dell'orizzonte, l'obiettivo, al di là del sentimento, camminare bene. Il vento scorreva, la croce e il mantello hanno impregnato il suo sentimento. Il ragliatavola non era nella frase, il ragliatavola era nel trasferimento e la scia del karma e della benedizione che è tornata indietro in modo retroattivo, o per anni prima. Al di là del sospiro, al di là dell'aspirazione, la sensazione, e il suo sentimenti. Il vento scorreva, la croce e il mantello si coprivano e la tua coscienza chiara aperto le porte in dimensione. Il tuo cuore batteva e la tua anima riflette il tuo sentimento in dimensione. Il ragliatavola non era nella frase, il ragliatavola era nel trasferimento e la scia del karma e la benedizione che è tornata indietro in modo retroattivo o per anni prima. Sulla tua strada c'erano fratture, ma tu volevi con le ali di ciò che è stato seminato prima, più tardi, nella tua visione. Il tuo cuore batteva e la tua coscienza chiara ha aperto ponti di dimensioni. Lucilio Cesare, il cavaliere.